Torino, venerdì 3 marzo. A Torino, Incontri ravvicinati del terzo tipo debuttò al Cinema Corso, una storica sala che avrebbe chiuso 2 anni dopo in seguito a un incendio. Chi andò a vedere il film quella sera non poté non imbattersi in una combriccola di allampanati, giovani, elettrizzati personaggi. Gli iscritti al GRUCAT, gruppo ricercatori, ufologi e clipeologi associati Torino. Clipeologia era un termine allora di moda. Indicava lo studio degli avvistamenti di UFO nella storia. Il nome derivava da un rapporto ufologico ante litteram di Plinio il Vecchio, che chissà dove aveva riferito di scudi infuocati, clipei ardentes, apparsi nel cielo. A Torino usciva da qualche anno un bollettino, Clipeo, a cura di un personaggio semileggendario, il grafico e illustratore Paolo VI. Mi chiamavo così prima del Papa, precisava quando si presentava. A ben vedere, un po' pontefice lo era per gli ufologi torinesi. E non solo. I ragazzi del GRUCAT seguivano ogni sua mossa e leggevano ogni sua riga con autentico fervore. Dopo averlo visto durante un viaggio negli USA, Paolo VI aveva benedetto Close Encounters of the Third Kind, per poi scriverne su Clipeo in anticipo di mesi sull'uscita italiana. Aveva definito il film una boa che ci appare e che possiamo raggiungere dopo tanto nuotare, attizzando nei suoi giovani fan una curiosità tendente al morboso. Ora, finalmente, il grande giorno era arrivato. Non è difficile ricostruire il profilo e le attività del GRUCAT data la grande abbondanza di fonti scritte e orali. Il ricercatore ha a disposizione sia i documenti che il sodalizio ha conservato e puntigliosamente inventariato, sia le rimembranze che i vecchi soci sono sempre disponibili a rovesciare su chiunque glielo domandi. Se l'oggetto della ricerca è più specifico, esempio non casuale come operò il GRUCAT in quel 1978, una lettura ineludibile è il libro dell'antropologa Milena Cravero, Quando arrivarono i marziani, ufologia, rapporti tra i generi e riti collettivi nell'Italia degli anni 70, Garamond, Milano, 1980. Il GRUCAT era nato nel 1977 dall'incontro tra giovani lettori della rivista mensile Il Giornale dell'Ignoto. Oggi quella testata è caduta nel dimenticatoio, ma all'epoca vendeva quasi 100.000 copie, 7.000 delle quali solo a Torino, la città dei misteri. 100.000 copie. Redazione e amministrazione però erano a Roma, all'Esquilino, nella sede dell'editore Pepper & Co. La produzione di quest'ultimo era variegata, tanto da includere periodici di enigmistica e astrologia, ma il giornale dell'ignoto era una delle due galline dalle uova d'oro, l'altra era Martin Zanka. Di Pablo Pepper, al secolo Pierpaolo Pepe, vulcanico jolly delle cronache culturali anni 70, tutto si può dire, e a pensarci bene tutto si è detto, tranne che non avesse fiuto e abilità negli affari. Il famoso appello di Natale agli ufologi d'Italia, apparso sul giornale dell'ignoto, era stata un'idea sua. Il direttore John Cavezzo l'aveva solo firmato. Nel dicembre 1976, con l'aumentare di avvistamenti di UFO nel mondo, la rivista aveva chiamato alle armi il proprio pubblico, esortando a costituire gruppi di ricerca sul territorio nazionale e a spedire alla redazione notizie, rapporti, curiosità. Apriti cielo, appunto. In una stagione che si tende a ricordare per la rabbia giovanile, le rivolte studentesche e l'escalation di omicidi politici, in tutta Italia erano nati club e sodalizi dedicati ai dischi volanti. Ogni settimana si tenevano riunioni ufologiche da Aosta ad Agrigento, da Cagliari a Gorizia, dalla metropoli alla provincia più sperduta. Ben presto il fenomeno era arrivato nell'etere. Più di 100 radio libere avevano messo a disposizione le loro frequenze ed erano fiorite le trasmissioni dedicate ad avvistamenti e incontri ravvicinati. Tutto molto dilettantesco, balbettamenti, frasi involute, volumi sbagliati, telefonate crepitanti, ma la passione era autentica. La primavera, Pepper e Cavezzo avevano esteso la formula alla parapsicologia, altra grande infatuazione di quegli anni, telepatia, telecinesi, rabdomanzia. Su sprone del giornale dell'ignoto, una miriade di appassionati aveva dato vita a congreghe e associazioni dalle quali giungevano resoconti e analisi di strani fenomeni. All'altezza del marzo 78, il giornale dell'ignoto prosperava su una base di entusiasta lavoro gratuito. Il rapido formarsi di centinaia di piccoli gruppi devoti a sottoculture aveva attirato l'attenzione di pochi ma intraprendenti sociologi, antropologi e psicologi sociali. Milena Cravero, all'epoca 26enne e assistente di cattedra in antropologia culturale a Torino, aveva proposto al suo docente una ricerca sull'ambiente ufologico. Rossano Crisafulli, detto il Fulgido, soprannome coniato da Cesare Pavese in persona, o almeno così voleva la leggenda, era stato un pioniere della sua disciplina in Italia, amico e compagno di scorribande di Ernesto De Martino, consulente della collana viola delle Einaudi. Aveva tenuto Milena in sospeso per un mese e mezzo per far pesare il proprio ruolo e ribadire che il suo assenso era raro e prezioso, come da cognome, che in greco significa foglia d'oro. Infine aveva detto sì, spiegando lui che quelle cose le aveva sentite per la prima volta da lei, che si trattava di un campo non battuto, di un tema diverso, di gruppi non ancora entrati nel loro radar. Da una ricerca così, all'avanguardia, l'Ateneo, col che intendeva dire lui stesso, avrebbe tratto nuovo lustro. Milena ci si era buttata a capofitto. Per questo andò anche lei a vedere il film quella sera. Un'ottima occasione per osservare la tribù che studiava da alcuni mesi gli ufologi del Grucat e di farlo fuori dalle quattro mura della loro sede in mezzo a gente diversa. Attiva nella nuova sinistra torinese e nel movimento femminista, Milena aveva preso parte alla sollevazione studentesca e giovanile del 77, per poi allontanarsi quando il livello di violenza e testosterone le era risultato insopportabile. Salvo sporadiche riunioni del coordinamento delle donne, da mesi si dedicava solo alla propria ricerca. Quasi ogni giorno andava in Ateneo. Palazzo Nuovo era ancora sotto shock. Sembrava un mare solcato da zattere di naufraghi. Il Fulgido l'aveva dispensata da alcune delle incombenze che toccavano agli assistenti. Così puntava dritta alla biblioteca, prendeva i libri che le servivano e si metteva al tavolo di studio, un approdo sicuro, a testa bassa. Intanto questo, poi si vedrà. Eppure, in fila per comprare il biglietto, non poteva fare a meno di chiedersi cosa avrebbero detto le compagne se l'avessero vista lì, alla premiere di quel film e con quella bislacca congrega. Entrando in sala, il gruppo degli ufologi, tutti maschi, trattenne l'entusiasmo. Dovevano aspettare che si sedesse Milena, secondo Galateo, o invece comportarsi come se lei non ci fosse, dato che era lì per osservare le loro abitudini. D'istinto, optarono per la prima ipotesi, non senza raccomandarle quale fila scegliere, tra la terza e la sesta, a partire dallo schermo per evitare il torcicollo, ma godere appieno degli effetti speciali. Non appena Milena scivolò tra le poltrone, gli ufologi, sgomitando per seguirla, intasarono l'imbocco della fila mentre un drappello correva al capo opposto sul corridoio laterale. L'antropologa si ritrovò seduta tra i due soci più giovani. Matteo Bonino e Pier Giorgio Pellegrino erano ancora studenti. Matricola di ingegneria uno, all'ultimo anno di liceo scientifico l'altro. Vivevano in famiglia e arrotondavano con lavoretti occasionali. Meno di un mese prima, durante una delle più grandi nevicate nella storia di Torino, avevano faticato per il comune come spalatori. Una sfacchinata della quale poca gente li avrebbe creduti capaci, giudicando dall'aspetto. Nelle foto di allora, i due hanno un'aria che anni dopo si sarebbe definita da nerd. Ai tempi, quel prestito dallo slang americano non si usava. Quattro occhi, secchione, erano gli epiteti riservati a un certo tipo umano. Occhiali spessi, incarnato pallido, postura un po' ricurva, maglioncini beige o turchesi, decorati a rombi. Oggi, nonostante l'invecchiamento, l'adipe e la calvizie, i due hanno un aspetto migliore. E si stenta a riconoscere i due ragazzi emaciati che andarono al cinema con Milena quel 3 di marzo. Bonino lavora per la multinazionale Ostendi. La sua equipe realizza infrastrutture in giro per il mondo. C'è la sua firma anche sotto il progetto della diga più grande e più contestata di tutto il Sud America. Quanto a Pellegrino, insegna matematica nello stesso liceo presso il quale si diplomò, il Gobetti. Entrambi conservano la passione per l'ufologia e fanno parte del CIRUT, Centro Italiano Ricerche Ufologiche Torino, nato dalle ceneri del vecchio Grucat. Pellegrino ne è il segretario e Paolo VI, morto nel 2017, ne è stato per decenni il presidente emerito. Quando è in città, Bonino non si perde una riunione. La sede è in un grande seminterrato in via Tepice, colmo di materiali d'archivio e memorabilia. Intervistati in quella cornice, gli ufologi rammentano perfettamente la prima volta in cui videro il film di Spielberg. Le luci si spensero. Milena sapeva di non poter mettere da parte il proprio scetticismo da europea di sinistra di fronte alle americanate, come all'epoca si definivano i colossal hollywoodiani. Ero cresciuta leggendo fantascienza, racconta oggi. In quegli anni era una cosa rara per una ragazza. Come tutti, avevo cominciato con Asimov. Quindi ero passata a Bradbury. Poi mi ero appassionata a storie sempre più strane, di quelle piene di questioni filosofiche, etiche, politiche. Mi piaceva Philip K. Dick, ovviamente. Mi piaceva la nuova fantascienza inglese, quella di Ballard e Moorcock. Mi piaceva John Brunner. Poi era arrivata Ursula K. Le Guin, finalmente una donna, di più, una femminista, a rompere l'atmosfera da club per soli uomini tipica della science fiction. Insomma, non ero certo di bocca buona e dal poco che avevo letto del film mi sembrava un ritorno agli anni 50 col disco volante che atterra e gli omini verdi. Temevo di trovarlo banale, stucchevole. La sequenza iniziale si svolgeva nel deserto di Sonora, Nuovo Messico. Nel mezzo di una sferzante tempesta di sabbia le apparve subito Martin Zanka, in sahariane e occhiali da sole, stempiato e coi capelli al vento, François Truffaut, nei panni del professor Lacombe, era il sosia dello scrittore. Milena non l'aveva mai incontrato, ma avevano polemizzato a distanza l'anno prima. Lei aveva stroncato il suo libro Robinson delle Galassie su una rivista femminista, F. Lui aveva reagito stizzito alla domanda di un intervistatore che gli riportava quel giudizio, facendo la vittima da bravo maschio messo di fronte ai propri automatismi. Sovrappensiero, Milena si perse qualche minuto di pellicola. A scuoterla fu un commento di Pellegrino. Urca! Aeroplani, un'intera squadriglia di caccia scomparsa in missione nel 45, era riapparsa all'improvviso nel deserto di Sonora, parcheggiati uno accanto all'altro come utilitarie davanti al lingotto. Senza i piloti, con carburante nei serbatoi e nessun segno del passare del tempo. Per tutta la durata del film, il Grucat continuò a rumoreggiare e commentare a voce alta. Gli spettatori protestarono più volte, invano. L'intera fila sussultò quando tra i personaggi sullo schermo spuntò niente meno che Allen J. Reineck, l'ufologo più celebre al mondo, nonché prestigioso astronomo. Compariva tra i presenti una riunione di militari e teste d'uovo, con occhiali, pizzetto grigio e pipa alle labbra. «Mi ero scordato che c'era anche lui!» sussurrò Bonino. «Pensa che tra poco viene in Italia!» «Shh!» fece qualcuno, da qualche parte. Oggi, Pochi ricordano la trama di quel film, che pure segnò in profondità l'immaginario collettivo. Il protagonista, Roy Neary, è il tipico americano medio. Impiegato della rete elettrica, vive in una casetta in periferia con moglie e tre figli. Per una casualità non spiegata, gli extraterrestri scelgono lui e altre persone comuni, alle quali trasmettono telepaticamente l'immagine di una montagna, la Torre del Diavolo. Si tratta del luogo di un appuntamento con gli alieni. Questi offrono ai prescelti la possibilità di un viaggio sulla loro nave spaziale. Non saranno i primi terrestri a compierlo. Prima del nuovo imbarco scendono a terra gli umani rapiti in epoche passate. Alcuni sono aviatori nella Seconda Guerra Mondiale e non sono nemmeno invecchiati. Einstein aveva ragione, dice un personaggio. Con l'autorizzazione degli scienziati del governo americano, Roy parte insieme agli alieni, raffigurati come omini bianchicci dalle grandi teste. La gigantesca astronave si alza in volo, simile a una cattedrale in uno sfavillio di luci. Sul nero della notte cosmica si stagliano i titoli di coda. Torino, venerdì 3 marzo. All'uscita gli ufologi apparivano eccitati e scombussolati. Formato un capannello, si misero a discutere degli effetti che il film avrebbe avuto sul grande pubblico e dei benefici che ne avrebbe tratto il loro movimento. «Devo convincere i miei vecchi a vederlo!» disse Luca Maiorino, il più capellone del gruppo. «Mi dicono sempre che perdo tempo con roba da mentecatti, ma se in questa roba da mentecatti gli americani stanno investendo miliardi, qualcosa vorrà pur dire!» Al capannello s'accostò un giornalista della stampa inviato dalla redazione a constatare l'impatto del film. Negli anni in cui il botteghino era il botteghino, l'intervista agli spettatori appena usciti di sala era un format piuttosto consueto. L'articolo, intitolato «Gli extraterrestri della nuova Hollywood piacciono i torinesi», riporta un virgolettato di Bonino. «Dobbiamo ringraziare Spielberg. Questo film farà capire a molta gente che l'ufologia è una disciplina seria e pienamente legittima». Poi i ragazzi chiesero il parere di Milena. Lei non si sbottonò, convinta che esprimere un giudizio avrebbe interferito con la ricerca. Ma quel che pensò dell'opera di Spielberg si può leggere nel suo libro. Neary fugge dalla famiglia, dal lavoro, dall'invecchiamento, dalle responsabilità. Fugge persino da una possibile nuova storia d'amore, la ragazza madre Gillian. Fugge dalla sua vita piccolo borghese per seguire la chiamata. Forse tornerà in un futuro lontano, più giovane dei suoi stessi figli. Roy va nell'altrove assoluto, seguendo la propria pulsione, tornare bambino e spensierato. Non a caso la prima volta che lo vediamo sta giocando con un trenino elettrico che a un certo punto deraglia, allegoria perfetta della sua frustrazione di adulto non cresciuto. Neary è un folle un visionario, un artista. A un certo punto modella nel salotto di casa la replica in scala della montagna dove avverrà l'incontro, ma già si dilettava di plastici e trenini elettrici. Verosimilmente è nato nella seconda metà degli anni 40. Ha vissuto l'epoca della contestazione giovanile in America. Ha messo in discussione le figure paterne tradizionali, il vecchio modello maschile, senza riuscire a proporne uno nuovo, quindi restando bloccato. Neary è il maschio in crisi che si sottrae a qualsivoglia confronto e fugge inseguendo il proprio ideale di vita avventurosa, e che in ogni momento potrebbe tornare con la coda tra le gambe a chiedere il perdono di una compagna, madre, o alternativamente a cercare consolazione in una donna più giovane. Quando l'ufologo Lacombe, Truffaut, si rivolge a Neary, che sta per imbarcarsi sull'astronave, dice: «Io la invidio». Non è solo lo scienziato che invidia l'uomo comune scelto per partire con i marziani, è anche l'uomo di mezza età che dichiara la propria invidia a un 35enne in procinto di mollare tutto per la grande avventura. Il pubblico del secondo spettacolo era già entrato. Faceva freddo ed era giunto il momento dei saluti. Il capannello si disperse. Appuntamento alle 9 del giovedì seguente nella sede del Grucat, che allora era un garage riadattato in corso Moncalieri. Milena si ritrovò a fare la stessa strada di Umberto Ravarino, 25 anni, impiegato al catasto di Rivoli. In ufficio lo chiamavano il Bigio, non solo perché alla sua età era già incanutito, bensì per una certa mestizia con cui sembrava affrontare le giornate, ma era solo odio per il proprio impiego. Se l'avessero visto quando si occupava di UFO, di certo i colleghi avrebbero cambiato soprannome: occhi spiritati, parlantina a mitraglia, mani che non riuscivano a star ferme. Tra gli ufologi era noto come Berto Musinè, perché si era spesso occupato di quel monte, il Musinè, un pezzetto di Alpi Graie alle porte di Torino, su cui fiorivano leggende clipeologiche, ufologiche e parapsicologiche. Berto, ancora sotto l'effetto del film, parlava e parlava. Pensa che la lavorazione di incontri ravvicinati è avvolta di dicerie. Gli ufologi francesi con cui siamo gemellati ci hanno mandato una selezione di articoli dalla stampa internazionale. Strane apparizioni intorno al set. Uragani pazzeschi che hanno spazzato via le tende della troupe. Maestranze che hanno colto la presenza di forze superiori. È stato pure avvistato un UFO, come se gli extraterrestri tenessero d'occhio la produzione di un film su di loro. La sua risata riecheggiò nel silenzio tetro di Corso Galileo Ferraris. Per essere un venerdì sera, la città era quasi deserta. A Torino in quegli anni si andava a letto presto. La capitale dell'industria pulsava al ritmo delle fabbriche, dove si entrava all'alba. Il resto degli abitanti più o meno si adeguava. Nottambuli se ne incrociavano di rado. La fauna delle poche piole aperte, il drogato che tentava di rubare un autoradio, i militanti politici che attaccavano manifesti o venivano da un circolo del proletariato giovanile non ancora sgomberato. Oltre a questi, solo metronotte e pattuglie della Madama. Ma a dirla tutta, c'era anche qualcun altro. Due sere prima, mercoledì, un gruppo armato aveva gambizzato un caporeparto Fiat. Il giovedì, una bomba incendiaria aveva distrutto la sede di un sindacato di destra. Nei weekend la città si animava un po' di più, ma il passeggio restava rado. Soprattutto d'inverno, e specialmente in quelle settimane. Alla noia del tran tran si era giunta la cupezza del presidio militare. Posti di blocco ovunque. Mitra in bella mostra. Sembrava la Belfast dei Troubles, ricorda oggi Milena. A Torino stava per riprendere il processo alle Brigate Rosse, per la precisione al nucleo storico, i militanti arrestati a partire dal 74. Il più famoso di loro, che i giornali indicavano come il capo, era il 36enne Renato Curcio. Il processo, partito nel maggio del 76, si era più volte interrotto, sbandando come un camion a una curva troppo stretta, e più volte era sembrato capottarsi, capovolgersi di senso. Effetti della strategia scelta dagli imputati. Processo guerriglia, lo chiamavano. Si erano dichiarati prigionieri politici e avevano rivendicato ogni azione siglata BR. A seguire, avevano revocato il mandato ai loro legali, rifiutato gli avvocati d'ufficio e annunciato che da quel momento non si sarebbe visto lo Stato italiano giudicare le BR, bensì l'opposto. Il proletariato rivoluzionario avrebbe giudicato lo Stato, la sua giustizia di classe, le sue carceri, trasformando il dibattimento in occasione pubblica e cassa di risonanza. Nel frattempo in città, i brigatisti a piede libero si impegnavano a dimostrare che quelle dei loro compagni non erano parole al vento, e a farlo nella maniera più drastica e sconcertante, per ribadire che non doveva, non poteva esserci un normale processo. Il 28 aprile del 77 un nucleo armato aveva ucciso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Fulvio Croce, a cui il tribunale aveva assegnato la difesa d'ufficio. Forse per la paura di simili ritorsioni o per la riluttanza di una parte di torinesi, specie appartenenti alla classe operaia, a sostenere lo stato dei padroni, solo da poco il tribunale era riuscito a formare una giuria popolare. Dopo numerose estrazioni e più di 100 rifiuti da parte dei sorteggiati. E dopo questi fatti, proseguì Berto, che però a tutt'altri fatti si riferiva, diverse comparse hanno avuto una crisi mistica e sono diventate molto religiose. Manco avessero visto la Madonna. Amen, pensò Milena, subito prima che alle loro spalle si udisse uno sparo, poi un altro e un altro ancora. Il tempo parve sospeso. Poi grida, scalpicciare di gente che fuggiva o accorreva, ma nel corso non si vedeva nulla. Stava succedendo in una traversa, forse in via de Sonnaz o in via Montecuccoli. Risuonarono le sirene della polizia. Milena e Berto si scambiarono un'occhiata e affrettarono il passo. Rallentarono solo quando furono abbastanza lontani e di nuovo avvolti dal silenzio. Berto, in apprensione, le chiese se poteva accompagnarla fino a casa e subito si imbarazzò per le implicazioni che quell'offerta sembrava avere. Prima che potesse peggiorare le cose con una maldestra giustificazione, Milena lo salvò rifiutando gentilmente. Nel tratto di strada che restava non parlarono più né di Spielberg né di UFO.